later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, fabbrica di polli, il tedio sta oscurando ogni altra umana percezione, Kappa e Drago hanno perso il conto. Drago, oh, ma in che anno siamo? Ah, adesso non ci chiediamo più che ora è, ma addirittura in che anno siamo. Ma scusa, dovremmo essere nel 2007, no? Sì. E allora perché il mio cellulare non prende? Vabbè, potrebbero anche esserci svariati motivi, non è certo l'anno, eh. Ma non prende, vedi? Non prende. Solo chiamate d'emergenza. No. Vedi, non prende. Insomma, non è che hai esaurito il credito, semplicemente. No, impossibile. I soldi non finiscono mai, bravo. Sì. Soprattutto da quando siamo qui in fabbrica, dove non c'è modo di spenderli, quindi figuro. Allora non so, guarda, non ho più idea. Ma scusa, se ci fosse una gigantesca schermatura. Sì, all'improvviso così, una gigantesca schermatura. Ma... Tu immagina, in tutti questi mesi qualcuno ha lavorato segretamente alla schermatura della fabbrica allo scopo di trasformare l'intero edificio in una gigantesca, smisurata, limitata gabbia di Faraday. Signor Faraday, signor Faraday, si calmi, signor Faraday, signor Faraday, signor Faraday, signor Faraday, signor Faraday. Mi piace partire in macchina d'agosto, resto in coda volentieri alla cassa del bar, resto in coda volentieri sulla riva del mare, resto in coda anche la sera quando vado a far l'amore sul viale. Io voglio far le cose tutte quante insieme a voi, non voglio restare solo mai. Io voglio far le cose in diretta con il mondo, non voglio star da solo neanche un minuto e neanche un secondo. La fabbrica di polli. Senti, la voce in tedesco dice chiaramente di lineare Verstärkung a Mogele da Gaborone. Ma di nuovo con questa storia del tredicesimo posto. Cosa ci posso fare se la voce tedesca dice a Mogele da Gaborone? Drago, sono segnali che ci arrivano continuamente e che noi non cogliamo mai. Cioè io li colgo, ma tu no. Invece i segni sono importanti. L'hai letto la profezia di Celestino? La cosa? Le nozioni di primo di classe. La profezia di Celestino è un romanzo di James Redfield uscito nel 1993 e che ha avuto grande successo tra i seguaci di New Age. A centro di Vicenza, un viaggio in Perù su tracce di misterioso antico manoscritto che contiene messaggio di importanza vitale per l'umanità e che tutte autorità, da chiesa a forze armate, a governi e a tutti insieme, cospirano per occultare. Indizi per questa ricerca arrivano a protagonista sotto forma di pioggia continua di coincidenze sorprendenti. A fine di libro, messaggio molto importante per l'umanità è che ognuno deve trovare propria strada dentro di sé, senza obbedire a niente e nessuno. Tipo, va dove ti porta il cuore, però in salsa esoterica. Versione svizzera del libro si intitola La profezia di Celestino Verli e parla di tutte altre cose, tra cui derby tra FC Zürich Grasshoppers del 73, finito tristemente 0-0. Grasshoppers! Grasshoppers! Vabbè, quindi dove eravamo partiti? Dalle coincidenze, Drago. Se da più parti senti dire la parola Amughele. Ma di dov'è Amughele? Ma chi è? Significa che qualcuno, magari un'energia a noi ignota, sta mandandoci dei segnali, capito? Come in incontri ravvicinati dai, del terzo tipo. Sì, incontri ravvicinati del terzo tipo, te lo ricordi? Tararara, sì. Quando Richard Dreyfuss vede dappertutto una montagnetta con la cima piatta. Sì. Dai, la vede perfino nel purée. Sì, mi ricordo che appiattisce il purée, sì. E poi ti ricordi che gli alieni atterrano proprio su una montagnetta uguale. Sì, però dai, Richard Dreyfuss, come dici tu, la profezia di Celestino, cioè K, cosa mi stai dicendo? Ma Amughele non è mai esistito, è il frutto della tua fantasia sovraeccitata. Shh, Drago, io non farei così il gradasso quando si tratta di Amughele da Gaborone. Amughele. Amughele. Amughele. Amughele! Amughele! Amughele! Stella, inserite un gettone sagomato di difficile reperibilità nella mia fessura sagomata di altrettanto difficile reperibilità. Tanto io l'ho trovata la fessura, adesso il gettone ho trovato anche quello, perché gli amministratori delegati non è che sono lì a fare gli scemi. Adesso inseriamo sto gettone. Fedele, cosa posso fare per te? Beh, innanzitutto mettermi a mio agio, perché io non mi sono mai confessato. Va bene che sto parlando con una macchina e quindi insomma l'imbarazzo di parlare con un essere umano non ce l'ho. Infatti questo sistema è fatto apposta per i fedeli infedeli come te. Allora cominciamo con i peccati, Sera. Ma tu sei dislessico oppure hai questo accento perché vieni da un pianeta lontano? I miei circuiti sono esclusivamente elettrici e quindi non capisco la domanda. Beh, io ho peccato, molto peccato, eh? Male, fedele, però dovresti scendere di più nei dettagli. Allora, innanzitutto ho guardato dei filmini con le donne nude. Sì. E mi dicono che questo non è bello. Insomma, dipende un pochettino anche dalla concezione della Chiesa e dal prete che ti sta davanti. Io personalmente non disdegno la visione di certi film. Ma come fai a vederli? Dov'è la tua sfera emotiva? Mi mettono una chiavetta USB nel buco giusto e vedo tutti i film che vuoi, spera. Va bene, l'altro peccato analitico è che ho pensato anche a persone del mio stesso sesso. Sì, questo anche è un argomento controverso tra noi cattolici. Possiamo soprassedere, prego. Vabbè, allora, ma se andiamo avanti così finisce che io ho peccato tanto e non ho penitenze da fare, eh? Credo che alla luce di questo primo colloquio io non possa fare altro che rimandarti a un'altra occasione in cui potrò analizzare meglio i tuoi peccati, Sfera. Grazie. Che cosa succederà adesso? Assisteremo ancora al dialogo improbabile tra l'amministratore delegato e il confessionale elettrico? E la ricerca di Amughele, il tredicesimo apostolo, sta tornando di scottante attualità? Ma di dov'è Amughele? Ma chi è? Lo scoprirete solo aspettando fino a lunedì a mezzanotte, quando potrete risintonizzarvi su Radio 3 per i prossimi non proprio memorabili allestimenti de... La fabbrica di polli produce, non chiude. La fabbrica di polli,